Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, la cronaca su Radio 24, due edizioni alle 6.30 e alle 13.30 delle storie che ci parlano dell'Italia vista in controluce. Il 12 e 13 giugno si votano i referendum sull'acqua. I quesiti mirano a limitare quella che i promotori definiscono la privatizzazione dell'acqua. Ma al di là di una valutazione sui referendum, vogliamo parlare di una zona d'Italia dove da più di 10 anni i servizi dell'acqua sono gestiti in maniera pionieristica da una società mista, pubblico e privata. 32 comuni in provincia di Arezzo, 5 comuni in provincia di Siena. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato di Nuove Acque, Jérôme Dusiec. Noi effettivamente siamo la prima esperienza, la prima applicazione della cosiddetta legge Galli, che prevedeva dal 94 una grande riforma del settore dell'acqua. Siamo partiti nel giugno 99, quindi abbiamo oggi circa 12 anni di attività. Il punto positivo della vostra esperienza è, diciamo, la qualità del servizio, di cui voi ovviamente vi vantate. Il punto dolente in alcuni casi è stato, e forse ancora, ora me lo dirà lei, il discorso delle tariffe, no? Cominciamo da quello che secondo voi è stato il miglioramento del servizio da quando voi avete preso in mano la gestione. Ci sono, direi, due aspetti fondamentali. Abbiamo una serie di indicatori, a cominciare da chi dichiara bere l'acqua del rubinetto. Erano circa 18% all'avviamento della concessione 10 anni fa e oggi sono più del 57% a dichiarare bere l'acqua del rubinetto. Sul fronte anche ambientale abbiamo appena inaugurato il nostro 32esimo depuratore di acque reflue. Non so se si rende conto di cosa significa, cioè aver diviso quasi per due il numero di scarichi liberi che vanno all'ambiente. Avendo investito più di 132 milioni di euro in questi 12 anni, noi stimiamo di aver generato sul territorio più di 2 milioni di ore di lavoro. Naturalmente tutto questo porterà per voi degli introiti e quindi sì, per i consumatori sono stati aumenti. Mi sa dire prima di tutto come sono quantificabili questi aumenti nei diversi comuni? La tariffa è determinata precisamente dal volume di investimenti che noi facciamo. Quindi in sostanza la tariffa aumenta quando aumentano gli investimenti che sono fatti. Questa è una meccanica che è definita dalla normativa e non certamente da noi. Oggi una famiglia, la famiglia media nostra, che consuma circa 150 metri cubi l'anno, paga di bolletta d'acqua un po' meno di 300 euro l'anno. Quindi stiamo parlando di, in media, un po' meno di 2 euro al metro cubo all'anno. Quindi per il consumatore l'aumento medio qual è stato? Allora, l'aumento medio è una domanda molto difficile, perché le tariffe erano molto disparate, molto eterogenee sul territorio. Ci sono zone per le quali l'aumento non c'è stato e ci sono zone montane dove non avevano bolletta d'acqua. Se parliamo di media, il nostro censimento faceva vedere una tariffa poco superiore media a 1 euro al metro cubo 12 anni fa e oggi siamo intorno a 2 euro al metro cubo. Quindi se volessimo sintetizzare potremmo dire che c'è stato però effettivamente un aumento del 100%. Non posso ovviamente condividere questa fotografia perché per parlare di pagamento dell'acqua effettivamente dovremmo aggiungere quello che sostenevano gli utenti prima nelle imposte, perché in tutti questi comuni dove non c'era bolletta dell'acqua ma c'erano altre forme di pagamento, non saprei dire se esistono ancora oggi, questo non ne so rispondere, però erano destinate a coprire l'acqua. Questo è importante, però bisognerebbe anche poter dire che in effetti queste altre tasse non ci sono più. Il calcolo non può non tenere conto di questi effetti di qualità del servizio. Però ha tecnicamente ragione, la media che si presenta a noi è quella lì. Mi pare che un altro punto importante sia che gli investimenti negli impianti sono destinati poi a tornare nel possesso dei comuni. Allora, questo è molto importante, hai ragione, sì, di precisarlo. La totalità dei nostri investimenti sono destinati a ritornare in mano ai comuni gratuitamente. È una specificità della concessione di Arezzo che non si ritrova o si ritrova molto parzialmente su altre concessioni. Quindi oggi tutte le innovazioni che stiamo costruendo, microturbina per produrre energia elettrica a partire dall'acqua, piuttosto che cogenerazione, piuttosto che nuovi impianti di produzione, nuovi reti e quant'altro, sono destinati a ritornare nelle mani dei comuni in modo assolutamente gratuito. Quando questo avverrà? al termine della concessione, che è programmato per il maggio 2024. A questo punto le vorrei chiedere una valutazione sul dibattito, diciamo, più generale, perché io so che voi dite, anche se dovesse esserci il referendum, noi in questa strada che abbiamo intrapreso con i comuni con cui siamo in concessione eccetera, non torneremo ovviamente indietro, per cui l'impatto su di voi potrebbe anche non esserci. Però mi faccia una valutazione invece su questa situazione in cui ci troviamo, cioè il referendum, la legge, la possibilità che ci sia un voto anche negativo e quindi dei cambiamenti di normativa. Allora, io condivido assolutamente la sua opinione, cioè Nove Acque è una storia che è cominciata e noi non chiediamo nient'altro, e lo chiedono anche i comuni, di portarla a termine così come l'abbiamo prevista. Quello che le posso dire più generalmente è che il settore dell'acqua in Italia ha un fabbisogno assolutamente incredibile di investimenti. Quando uno pensa che circa la metà dell'acqua è dispersa dalle reti di distribuzione, possiamo immaginare l'ammontare, il fabbisogno di investimenti che è necessario. È evidente che un settore che ha bisogno di così tanti investimenti ha bisogno di certezze normative. Il referendum è una forma di incertezza, quindi io credo che possa mettere un po' in difficoltà la capacità di investire in questo settore. La concessione che voi gestite, quindi la normativa che è stata creata nel vostro caso rispetto alla legge nazionale, dico extra referendum, ci sono delle similitudini? Allora, la nostra società è una società mista, a capitale prevalentemente pubblico per il 54% e di un socio industriale per il 46%. Noi crediamo che una forma davvero efficace, perché da un lato i comuni garantiscono una forma un po' di territorialità delle decisioni e il socio industriale dà quello che sa fare, il know-how, la capacità di investire e queste cose. Quindi trovo questo matrimonio molto, davvero molto efficace. Perché invece la normativa nazionale prevede quote diverse, la normativa nazionale, così come l'ho capita, prevede che le società interamente pubbliche che hanno fatto un affidamento in-house aprano il loro capitale a un socio industriale, anche loro, con delle quote che sono determinate. Quindi il modello proposto a livello nazionale chiama un po' questo modello della società mista. Credo che vada un po' in là, per quello che ne so, riducendo la quota parte del socio pubblico a delle percentuali che sono inferiori a quello che abbiamo oggi ad Arezzo. È tutto anche per questa puntata Italia in Controluce. Scriveteci, siamo anche su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Buona giornata.